ma l'opera sua più genuina, a giudizio della critica, attinge direttamente al popolo. È il canto tradizionale friulano elaborato con spontanea inventiva e limpida armonizzazione. Lo conferma C'è biele lune. Che bella luna sbircia tra le nubi. Ascolta come gorgheggia il rosignolo. Un altro notturno ch'ebbe ad ascoltatore e proprio con cielo lunare niente meno che Gabriele D'Annunzio, quando invitò al Vittoriale i suoi legionari friulani, salutandoli custodi della piccola patria nella grande. A questo punto, il pallido capo sollevato verso i cantori controluce, alla ringhiera del filo dalmatico, il poeta esclamò: «Bravi! Avete cantato con la punta del cuore!» Era l'elogio, e quale autorevole elogio, che confortava il tramonto di un musico dimenticato. I più, infatti, non s'erano accorti, nell'incalzare degli eventi e degli egoismi, che questo gentiluomo di campagna aveva avuto un solo orgoglio nella solitudine della modestissima vita, quello di interpretare l'anima del Friuli. L'anima, come scrive il cantore di Alcione, che sembra gaia ed è triste, sembra lenta ed è pensosa, sembra mobile ed è fedele, armonizzata alla nobiltà della sua terra, fra il litorale di Grado e l'Alpe Carnica, fra i Veneti Giugli e gli Euganei. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, un gentiluomo di campagna, testo di Ciro Bortolotti. Hanno partecipato alla trasmissione il Quintetto Friulano, il Circolo Mandolinistico di Udine, l'Ottetto di Capriva,